140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @ Marta Cagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Hotel Boscolo, Milano. Una pausa in decenni di Pooh. Ora fa da solo con L'Istinto e le Stelle, tra le firme Fossati e San Giorgi e grandi collaboratori, Red Canzian. Quando me l'hanno consegnato è come se qualcuno avesse tirato una riga di un totale nella mia vita e ho visto improvvisamente la somma di tutti i pensieri, le emozioni, le gioie, le paure che ho messo dentro in questo disco. Personalmente ho voluto raccontare tutta la mia vita, ma soprattutto raccontarla in maniera senza paletti, in maniera assolutamente spontanea. E poi ho imposto che questo lavoro così ricco, perché c'è dentro un film di 2 ore, un booklet di 70 pagine, ho imposto che venisse messo in vendita al prezzo di un CD normale, perché credo che nella vita le strade non debbano mai essere a senso unico e ogni tanto bisogna anche ridare indietro quello che si riceve. Allora mi sono penalizzato io con la mia discografica dicendo: non pagatemi fino a quando non avrete coperto i costi, ma lasciatelo a questo prezzo. Perché hai deciso di tirare fuori tanto di te? È quel tanto che credo che la gente in generale ha dentro e ha voglia di raccontare o di sentirsi raccontare. Viviamo in un mondo in cui tutto ciò che accade è già consumato nel momento in cui accade. Far capire che ci sono anche delle cose che rimangono nel tempo, come il ricordo, la memoria, la figura di un padre che mi ha insegnato a lottare e a non mollare mai, e la passione e l'affetto per i miei figli, l'amore immenso per mia moglie, e le immagini reali di una vita che la gente vuole, che è quello che la gente vuole, credo che vadano raccontati in un momento in cui sembra tutto andare allo sbando. Credo che il non essere nel mucchio, essere assolutamente normali e semplici, e raccontare poi attraverso la musica, che è un conduttore di emozioni pazzesco, le cose più belle, più vere della tua vita, diventano poi le cose più vere per tutti, non solo per te. Ti viaggio addosso con lo sguardo mentre cammini strepitosa, con quella schiena che mi chiama, quell'andatura favolosa in questo sabato affollato. Nel centro storico di tutto mi sei apparsa all'improvviso e sto inseguendo il paradiso. E corro e corro verso te, e corro e corro verso te, e corro e corro verso te, e corro e corro verso te. Avrò anche visto tante volte aprirsi al cielo un calicanto, ma non avevo ancora visto. Ci sono due anime diverse, quella della solitudine, di quando ti sei ritirato in montagna a fare le passeggiate con tua moglie, con il cane, o in Canada a registrare una melodia che ti veniva in mente, e invece l'anima delle collaborazioni, del voler condividere, del suonare come una volta e addirittura con gli amici di una volta. Sì. Io credo che questo disco ha veramente tante facce, come hai detto tu, e tanti colori. Abbiamo scritto e lavorato tanto e queste facce vengono fuori dal lavoro, ma prima di mettere in mano le mie emozioni ai collaboratori, ai musicisti, ai miei figli che hanno collaborato, a tutte le persone che sono in questo disco, ho dovuto fare prima una piccola sintesi dentro me stesso e somatizzare i miei ricordi, le mie emozioni, i miei pensieri che avrei voluto raccontare per quanto mi riguarda in musica, e poi con la mano delicata e preziosa di Mickey Porru attraverso i testi. Sì, siamo stelle nel sereno. Sì, mi accarezza il tuo respiro. E poi guarda oltre la finestra, sulla luna c'è un'orchestra. Io con te sono io, tu con me vai da Dio, e ogni giorno un altro giorno. che ti amo. Ti rivolgi al pubblico spiegando anche come si fa una canzone e presenti al tuo pubblico, ai tuoi fan, tutti quelli che concorrono a far sì che un disco viva, anche se il loro nome non è noto, anche se il loro lavoro non è conosciuto, perché tu presenti i fonici, spieghi certo. Davvero come si fa una canzone. Io penso che un disco, un progetto, una canzone non è mai fatta soltanto da una persona o da una intuizione. Cioè, ci sono mesi di lavoro, di fatica, di riperfezionamenti, perché uno poi vuol dare il massimo, perché poi un disco rimane per sempre, no? Voglia di riprendere le valigie, magari prendere Chiara, prendere Phil e andare a suonare il disco in giro? Quanta? Ma tanta, perché l'altra sera ho fatto, diciamo, l'ultimo concerto estivo, tra virgolette, dove io giro appunto con questo concerto, siamo in 9 sul palco, c'è anche Chiara e ovviamente c'è Phil, sia al pianoforte che alla batteria, e c'era mia moglie in sala. E io ho visto questo momento veramente nostro con un pubblico adorabile che applaudiva ed era molto felice ed emozionato per questo concerto. Ho detto: se mi dessero un foglio da firmare dove c'è scritto tu adesso parti in tournée fino a quando diciamo noi, io lo firmerei, perché basterebbe passare per casa a prendere Zante, il nostro cane, e avremmo tutti con noi. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Red Canzian. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.